The Mad Boys, Bolzaneto, Francia, Zatarra, Simo X, Genova, Marseille, Siena, la connexione. Solita notte da lupi nel Bronx. Il locale non stanno suonando blues, ma i pop. Sono un losco individuo talmente amante dei bar che se un domani avrò una figlia sicuro la chiamo Barbara. E Barbara, la mia attitudine al flow, la tua crew conta MC Grammy, che più Grammy li ho visti soltanto in blu. Cerco di capire se sempre chi cazzo di fronte, visto che questa scena è più falsa dei capelli di Antonio Conte. Il rapper lo vedi su rap sempre più spinto e convinto, ma poi davanti non li ho mai sentiti parlare come Maggie Simpson. Frate, vendo la pelle cara più del fumo e dell'erba in Olanda. Vorrei fare soldi soltanto per rendere felice e non far lavorare mia mamma. Trovi un amico, un tesoro, ma stai tranquillo che se c'è un tesoro gli amici ti trovano loro. Se tutto l'oro del mondo non vale una persona vera, Simo X, Zatarra, la situazione si fa seria. Questa vita io la vivo così, esprimo queste barre sopra un beat. Solita notte da rubi nel Bronx. Se non credi a quel che vedi, vieni a stare qui. Questa vita io la esprimo così. Non mi puoi giudicare, non ti rimane che stare a guardare. Se credi che la vita è un film, questa vita io la vivo così. La vivo così. Non ti rendi conto cosa c'è intorno al tuo mondo. È il tuo peggior affronto se il confronto ti confondo. Troppa America in Italia sai, troppa gente non ringrazia mai. Troppo pancazzismo ed egoismo non rima con rap mai e poi mai. Prova a cercare cos'altro c'è e c'era. Vai fuori dall'Italia, vedrai che l'hip hop non ha bandiera. Non c'è un sistema ma quale chimera. Un'arte non si inventa da mattina a sera. Il sogno non si avvera. Non ti rendi conto che ormai qua è come un disco rotto. È come un paradosso, la puntina rovina chi resta sotto. Ok, c'è belle expliqué, ossia français. Faut bien écouter. À 50 ans, y'a qui écoute les rap. En finir en Italie, 30 ans, on n'a jamais acheté un CD. Non sono stato chiaro, beh, cerca sul dizionario. Così per una volta quel neurone ti l'ha trasvegliato. Non ti rendi conto, non ti rendi conto che c'è un altro mondo e tanti altri mondi che. Non ti rendi conto, non ti rendi conto che c'è un'altra chance per. Questa vita io la vivo così, esprimo queste barre sopra un beat. Solita notte da rubi nel Bronx. Se non credi a quel che vedi, vieni a stare qui. Questa vita io la esprimo così. Non mi puoi giudicare, non ti rimane che stare a guardare. Se credi che la vita è un film, è solita notte, è solita notte. Quando ti spacchi le nocche, è solita notte.